provvisto eri vestita come me. Avevamo tutte e due un kimono da karate. Innamorai, chissà perché. Qualche storia vera io l'avevo avuta, sai, ma senza innamorarmi mai. Poi quando t'ho vista la mia mente è volata via, come un gabbiano che segue una scia. Eri bella più che mai, io guardavo in fondo agli occhi tuoi. Forse ti amo, forse ti amo, forse ti amo e tu lo sai. Siamo buttati e poi sempre più intesa tra di noi. E col suo riso dolce io non l'ho scordato mai. Ancora oggi tu ci sei. Le tue labbra rosse sulle mie mi lasciavo andare a fantasie. Sei tu la donna, sei la mia donna, sei la mia donna e tu lo sai. Cercando ovunque, sai, non ti trovavo quasi mai. Avevi mille scuse per tenermi fuori da te, dalla tua vita, senza un perché. Sono entrato in discoteca e poi ti ho rivista e riabbracciata a lui. Mi sento strano, mi hai preso in giro, mi hai preso in giro e tu lo sai. Con la moto sono andato via, ripensando questa vita mia. Oggi c'è sole, domani piove, che vuoi che sia. We'll be right back.